Il consolino non scherza niente in questi giorni. Lidia Centineo, fammi sentire di nuovo la tua voce nel microfono centrale. Lidia X, ecco. Conseguenza. Sì. Ciao. Ciao, benvenuti a tutti. E poi chi c'è? C'è Michele. Ciao Michele. Che è il chitarrista e bucusista di Lidia Is. È un mandolino, ma è oversize, un po' come le 500, esatto, che adesso le fanno gonfie. Va benzina. Si chiama Buzuki. Ah, beh, più semplice di quello che pensassi. Buzuki. No, ma possiamo anche bazooka. È tipo un bazooka, sì. Ma. Allora, chiamiamo bagaglio. Allora, quindi, caro Stefano, ritorna con noi. Che è una puntata importante, poi mia mamma mi sgrida. Hai ragione. No, volevo postare la foto su Facebook. Posta dopo. No, non posso. Se posto dopo i nostri ascoltatori non si ricordano di corso spaziale e non vengono ad ascoltare. Non posta dopo, posta dopo tra un po'. Intanto concentriamoci sui nostri ospiti, ecco, che già la prima gaffa l'ho fatta, quindi io sono Lidia pulita. Centineo. Insieme, da un po' di tempo, loro due, come Shezan, uniscono gli anelli e diventano i Lidia Is. Yeah. E cosa fanno qua a Coxo Spaziale? Che poi siamo in duo, ma delle volte siamo in trio, forse saremo in quattro. Poi in trio con chi? Ci sono altri bassisti che si alternano. Siamo uno e centomila. Sì. Poi ci sono altre due presenze. Che stanno facendo delle cose un po' strane. Ma sì, ma infatti. Intanto mi siedo, mi rilasso. Ti conviene. Ecco. Ma allora, ragazzi, perché poi vi ho visto lì che tiravamo i cavi e tutte le cose. Quindi è chiaro e lampante per noi. Adesso lo condividiamo anche con i nostri Coxo ascoltatori che questa è una puntata musicale. Musicale, sì. Ok. E quindi Lidia Is. Che cosa ci raccontate di questo gruppo? O lo chiediamo a Elisa, che vi ha seguiti fin dalle origini? Sì, ma esatto. Io non li ho conosciuti. Mi sono traumatizzata Lidia Is, dal traffico che ho trovato. Cos'erano per arrivare? Quando li hai conosciuti? Non lo so. Come vi chiamavate? Lidia e Michele. Lidia e Michele. Quindi diciamo che questo e è lo quelli delle orchestre. Esatto. Questo è lo zoccolo. Facevano Lissio. A dirla tutta, anche c'era Chiara. C'era anche la Chiara, la fotografa, suonava con noi. Ah, sì, una cosa delle due suonava presenze lei? Qua la chitarra anche la fotografa, lei. Ma quindi suonava la chitarra, quindi. Interessante. Poi la Chiarina sta prendendo lezioni di batteria, quindi tra un po' il percussionista. Il percussionista che ci serve, finalmente l'abbiamo trovato. Comunque diciamo forse. Che Lidia Is prende questo nome da cosa? Ma direi da me, che sono molto egocentrica. Sì? No, l'avevo io proposto agli altri, perché prima c'era anche mio marito, che poi forse tornerà, adesso vediamo. E lui ha detto, nessuno dei due voleva comparirne il nome, non gliene fregava niente. E io ho detto, va bene, dato che il mio nome voglio che ci sia, ho chiesto a uno dei miei figli che un po' se aveva delle idee, lui ha detto Lidia Is, come Sheena Is. Sì, appoggiandosi a una canzone che ci scalda il cuore ogni volta che ne sentiamo il titolo, vero Pasco? Pasco, ritorna tra noi. Stavo leggendo un messaggio, abbiamo un messaggio dal nostro direttore che salutiamo. Oddio mio, paura. Mi ha detto non sforate perché dopo c'è un nuovo format dopo. Ma quando, di volevamo suonare mai il Coxo sfora, scusami, noi siamo la trasmissione più puntuale del palinsesto della radio. Siamo i più puntuali. Caro direttore, io e ossessivi compulsivi di almeno di tutta quando radio le Città quando Fucina. Le faccio io la almeno regia. Quando le fai tu, quando le faccio io. No. Va bene, quindi tornando a noi, hai sentito che qui è stato citato un brano che ci ricorda le nostre care amiche di qualche anno fa? Sì. Bene, non hai reagito? No. Niente, ok. Me l'aveva già detto nella puntata in cui sono venuta l'altra volta, comunque l'avevamo già salutate. Io ascoltavo anche la trasmissione ogni tanto l'ho sentita, sì. Che bei tempi, ti ricordi? Che bella. Ci manca tantissimo. Sì. Vabbè, comunque, allora, siccome abbiamo bisogno dopo questo momento di Amarcord e nella speranza che Pasquini concluda con la messaggistica e si possa riunire a noi, di avere un momento per celebrare, riprendere il mood del presente, che ne dite di partire con un brano? Dai. Proviamo, così intanto facciamo i suoni, vediamo se esageriamo e rompiamo tutto. Il corso tutto. D'opera alla coxica, come piace a noi. Esatto. Quindi io cosa faccio? Quindi abbasso tutti i microfoni perché tu c'hai il tuo? No, no, no, lui mi deve sentire. Ok. Perché lui sente la cassa e anche la voce naturale. Sì, abbiamo provato. Adesso vediamo cosa viene fuori. Va bene, allora invece tiro giù la musica di sottofondo. Quella magari ecco, sì. Ecco, quella assolutamente. E tiro magari... giù i microfoni. Ma noi andiamo anche con play. I nostri ci sono. Ah, sì, ci sono. Saluto tutti, ciao. Bene. The dreams on which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting. For the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel that way, the average I should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams on which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Imagine your gli applausi, yeah, Pat. Eh? Abbiamo gli applausi. Gli applausi Pat. Registrati? No. Sono io che applaudo, ma non lo so, si devono applaudire da soli loro. Bellissimo, no, anche questo astuccino di Andy Warhol che c'ha. Adesso lo fotografo. Tu non lo vedi perché sta tenendo su. Ma lo vedrò domani su www.coxospaziali.blogspot.com. Esatto. Grazie Michele. Agli ascoltatori. Fallo vedere anche agli ascoltatori. Ai teleradioascoltatori, come piace al Don W. E, a lei c'è la ecco, Don mi mancava comunque. Anche a me. Non è per niente euforico. Si è anche rotto lo sgabello. Ah, ecco, continua pure tu, Stefano, un attimo che mi aggiusto. Salutiamo anche Galgano. Anzi, salutiamo Galgano e anche suo padre che ha fatto una mostra dentro a San Petronio. Non lo sapevo e non ci sono andato. Adesso sabato ci vado, domani ci vado. Ah, domani c'è un sacco di mostre da recuperare, sì, a partire dall'inaugurazione di stasera. Infatti, domani è la giornata del contemporaneo. Wow! Lo sapevi che, vero, che no, significa? Non lo sapevo. Cosa significa? Ah, niente, che domani è domani. E domani che giorno è? Sabato. Il 13, tipo, ma tutti i 13 ottobre? No, ottobre, un anno no? Era l'8 ottobre. Perché ah, abbiamo, ce la spostano come fatto, San Petronio. Sì, esatto. Perché San Petronio la spostano? Un po' sì, dice, nel senso il santo sarà sempre quello, ma la festa la mettono un po' dove fa più comodo. Ah, ok. Così si può sempre fare il ponte tutti gli anni. Parebbe. Comunque stiamo annoiando il nostro pubblico. Ma insomma, livello... Galgano con me ecco. Dei pezzi bellissimi. Ecco. Michele, non so, mi piacerebbe unirli i due, però non lo so se sono compatibili. Michele più... Si sopportano? Più no, classico. So. No, secondo me andrebbero d'accordo, dai. Però Galgano è estremo. Ma dimmi elettronico. Un po', che cos'è questa macchinina che ti sei portata questa volta? Che ha dei effetto. Pulsantini, sembra un po' anni Tra 50. Tra l'altro, vedi, mi sono scordato un pulsantino spinto e è venuto fuori un suono. Sembrava che ci fosse un uomo dietro che cantava. Infatti sembrava che ci fosse però un solo alla fine. Ma sai che mi piaceva molto sta cosa che ma c'era? Infatti, perché dai. Dicevo, come fa lui che mentre suona e a bocca chiusa riesce a fare il coro? Poi mi sono guardato, ho detto, io non sono. Era lui esatto. Era perché lei è un po' che ci prova, dico fai la seconda voce, sa fare la seconda voce, ho detto no, io non faccio no la abbiamo perché... pensato che più preciso l'helicon qua. Vabbè, non si può fare l'helicon. Ho capito interessante. A me piacciono moltissimo questi nuovi effetti che ci sono in giro, queste nuove macchinine no. E quindi ma si sente quindi l'effetto, sì dai. A proposito di sentire, se riesci a stare un po' nella cuffia qua, certo, non sarebbe male per me perché... Ok, alzaci. La musica di sottofondo non c'è più. No. Vabbè, ma tanto c'è lui che sta facendo la musica di sottofondo. Allora la tolgo. Allora dai. Ma fai un po' riprendiamo subito, dato che dobbiamo finire in tempo. Appunto. Cosa ci fate ascoltare adesso? Mi decide Michele, mi sa Bring on the Night. Va bene. Ah, ecco. Allora. Ok. Aspetta che è una canzone di chi? Dei Police, Bring on the Night. Certo. Quella prima dei Tears for Fears. Giusto. Funziona? Direi che funziona abbondantemente. Ok. Sembravi improvvisamente uscire da un cielo. Anzi, ricordami che metto il bottoncino con la seconda voce. Metti il bottoncino con la seconda okay, voce. Ok, dai, non da subito. Ah, ok. Pass me by. The evening spread its elegance, the sky. Waiting for tomorrow, just another day. Got me yesterday. Goodbye. Prova Lidia is. Già è il tuo test. Yeah, sempre allegri, vero? Riusciamo a trovare le canzoni dei Police più tristi. No, avevo una domanda per Michele. Che cos'è sta cosa che stai suonando? Questa cosa che sto suonando sembra un mandolino, come diceva lei, gigante, no? Perché sarebbe in origine, è un buzuki, è un liuto a manico lungo di origine greca, è di origine greco come strumento. Questa però è la versione irlandese, che è nata molto dopo, negli anni 60, quindi abbastanza recente. Di fatto loro hanno tolto la bombatura dietro, lo strumento avrebbe una bombatura doppia, sempre quattro corde doppie, e loro hanno segato praticamente dietro. Probabilmente hanno pensato a noi dei 50 anni con un po' più di buzza. Quindi l'hanno fatto anziché, esatto, anziché concavo, l'hanno fatto convesso, per la buzza. Meglio sul corpo, si possono andare meglio in piede, più aderente, se no stava doppia pancia, doppia curvatura, era un po' un problema. E, no, niente, quindi sono doppie corde che producono un suono tipico quasi anche della chitarra 12 corde, no? Stefano fa però è come se parlasse arabo. Ma come? Guarda che io l'ho suonata una 12 corde una volta. Ah, davvero? Sembro un ignorante su tutto, in realtà no, non sono è un vero. Ignorante solo su quasi tutto. Poi la particolarità che però è accordato in un punto, in un modo completamente diverso rispetto alla chitarra, è appunto accordato tipo il mandolino. È studiato per i bipolari. Esattamente, perché è un po' come un basso rovescio, no? Perché anche il basso ha quattro corde, però sono esattamente ribaltate, quindi devi resettare completamente. Comunque lui l'ha imparato in due minuti a suonare. L'ha regalato anche se l'Elisa tutto... il 12 gennaio, appunto la volta che eravamo qua. Ah, ecco. Non l'avevo, perché sono arrivato a casa e ho trovato questa bella sorpresa. Questo buzuki. Sì, che io dicevo, ma mi piacerebbe avere un violoncello. È arrivato invece un buzuki. L'Elisa qua presente. Un buzuki, è vero, in realtà. E dunque il prossimo 12 gennaio scatta il violoncello. Sì, stasera, no, anche stasera, chissà quando arrivo a casa. Perché il mio marito non mi regala mai niente. Non, perché tu canti, non lo so. Non lo so, quello lì non te l'ha regalato tuo marito? No. Almeno tuo marito sa cosa serve. Quindi non ha le cuffie. Ah, ok. No, Fedra si chiedeva se tuo marito sapesse che cosa serve quella scatolina lì. Almeno. Sì. Comunque un consiglio. Mio marito suona. Rimettetevi le cuffie magari, visto che siamo in radio. Avevo okay. Caldo. Caldo. Sì, di là fa più caldo che qua. Sì, fra l'altro Michele sta uscendo, Michele ha deciso che la prossima canzone la fai a cappella. No, invece io chiamerei a intervenire in questo momento di latitanza di chitarrista Elisa. Aia. Elisa, ah, vieni, avvicinati al microfono. Elisa, perché lei, anche se non sempre, c'era. Okay. E quindi ci può un po' dire come era la prima formazione dei Lydia Is prima che diventassero Lydia Is. Esattamente come ora, ma non si chiamavano Lydia Is. E come si chiamavano? E non mi ricordo. Erano più giovani. Non lo so, ero solo testimone. Ero Naus, sì. Ecco, mi mancava il nome, però... Com'era? Ero Naus. Ero Naus. Adesso non so... Che cosa vuol dire? La casa dell'airone. Ah! Da una canzone di Irem. Avevo... Ho capito. E c'era ma anche è più bello Lydia Is. Invece è bellissima anche il nome che ho col gruppo di Galgano, cioè che siamo il duo di che è, non mi ricordo, aspetta. Però era molto bello. Era bellissimo. Sappiamo che è l'abbiamo bello. Deciso adesso perché abbiamo fatto i pezzi e dobbiamo Lilipad. Ah no, è carino Lilipad. Lilipad sempre Lydia. Pad perché comunque richiama anche suoni elettronici, infatti, se è l'inferno, giusto? Un nome parlante. No, ma, sempre mio figlio, vedi se li ah sì, bravi. Ma allora dovresti prestarmelo un attimino, che anch'io ho 2-3 progetti e devo nuovi in cantiere. Se hai bisogno di nomi, lui scrive anche bene. Tra l'altro ci rivedremo anche dalle tue parti, che con quel site specific ci ritorno. Dai. Ci ritorno. No, senti, invece io lo so che voi volete esprimere le note e quant'altro, io però c'è la pubblicità. No, non c'è più, no, pensa non c'è un più. Po'. Quest'anno non c'è la pubblicità. Vi spremiamo fino in fondo di tutte le vostre risorse e anche di tutti i vostri aneddoti. Io voglio. Devo andare in bagno a far pipì un attimo. Ma quella non te la spremo. Sono un po' trash. No, volevo sapere degli esordi, di come vi siete incontrati, perché alla fine voi due Lidia e Michele, siete un pochino il nucleo portante del progetto musicale, quantomeno siete voi due dall'inizio alla fine. Siamo gli unici due sempre rimasti. Sopravvissuti. Che, perché insomma, chiamiamole... Ho iniziato io con Chiarina, questa qui che fa le che infatti quando ho provato a chiamare qualcuno... Dopo abbiamo messo un Pask, microfono. Microfono, vai. Eravamo piccole, eravamo al liceo, due ragazze che cercavano musicisti e subito pensando di inchiodare andiamo da Resti Michele. Rubini a mettere un a guardare gli annunci e trovammo un Fabio o prima lui? No, Fabio chi era? Fabio, Fabrizio. Ragazze, un po' di scenario, eravamo alle superiori dove? Al Fermi. Salutiamo gli amiconi del Fermi. Non scrivo niente su Facebook, gli amiconi. A proposito, Cox spaziale. Doveva scrivere anche Loparco, anche Domenico Loparco, il bassista che e invece c'ha... non sta scrivendo nessuno. No, ma lo vedrai che Domenico. Ma non lo sappiamo perché forse voleva telefonare, ma non va al telefono. Lo possiamo chiamare noi se vuole. No, vabbè, lo stesso. Comunque, tornando a bomba, però... io sono l'unico sopravvissuto perché è l'unico probabilmente riesce a sopportare ancora. Quindi tu sei il primo che, ma tu sai anche i tuoi scusami, amici possono messaggiarci al 333 180 94 94 nel caso. Ah, non su Facebook. No. Ho detto a tutti sulla pagina di Facebook. Sulla pagina di Facebook di Cox Spaziale? Sì. Di okay. Cox va bene. No, va bene. Tanto il Pasca è connesso. Invece volevo chiedere a Michele che se quindi tu eri il primo ad aver risposto a quell'annuncio. Ah, questo non lo so, cioè, non si sa mai se sia il primo. Mi sa di sì. Credo di sì. Era già bravissimo e abbiamo detto a posto. Cioè, chiaro, quando sono arrivato io ho sbaragliato qualsiasi concorrente. Non ho discussione, ma... E quindi da lì incontrasti queste due pulzelle tutti insieme, tutti e tre, dove andavate a fare le prove? Ci ho provato con tutte e due. Vabbè, tipico. Poi dopo aver per provare gli accordi, le armonie. Uno pensa sempre che uno si sta provando. Vabbè. Ma scusa, tanto essere convinti. Stiamo parlando delle superiori, cioè, sì, insomma. Beh, non diciamo le nostre età, facciamo no, sì. In realtà stiamo parlando che te forse stavi già cercando di laurearti. No, comunque... non è vero, no, era prima. Io avevo 20 anni quando ti ho incontrato. Era 90. Vabbè, stai zitto. Le prove dove le facevate? È andata, ormai è andata. Abbiamo scoperto che. Ma io sono una bambina, cosa stai a dire? Posso anche un'altra volta. Microfono, tirare fuori anche del materiale registrato particolare. Interessante. Performance. Comunque, Pasquini ha messo un pezzo mio dove suonavi anche tu, chissà chi è, aiutami che sono messo male. Esatto. Una compilation di artisti bolognesi. Spaventoso. Sì, citando quello con la barba. Avete scritto. Io e Fabio. Io col marito. Sì. In un pezzo vostro. Fabio. Però suonava, dai. Pier Maria Saglietto dice vai Lidia Centineo. Vabbè. Come si devi dire? Cavoli, Pier Maria Saglietto, grazie, come stai? Carissimo. Ti scriverò una delle tue freddure. Abbiamo la cocotta a Bologna, lo sapevi? Oi. L'hai vista, no? La mia omonima, no? La vedremo, dai, intanto la salutiamo. L'altra Lidia. Siete pronti per un altro pezzo? Che cosa fate? Introducetecelo. Facciamo Shock the Monkey di Peter Gabriel. Ah, però, hai detto niente. Infatti. Cioè, proviamo a fare Shock the Monkey. Provateci. Pronto. Ma male che va, come direbbe Danilo Masotti, male che va male. Certo. No, dicevi, ho due capotasti. Sì, ebbene sì, ho due capotasti perché... Foto, Pasquini. Sì, perché... Perché tu due capotasti è meglio che one. Esatto. Per fare... Sto sudando, sto dimagrendo. Sì, sembra un po' una storia. Sì, in effetti. Sto dimagrendo, magari. Bene. Questo è un momento poco radiofonico. Questo no, sorriso. Ma si sta creando la suspense, e l'attenzione, la pazienza che viene spronata. When I run, cover me through the fire. Something knocked me out the trees. Now I know my need. Cover me, darling, please. Hey, monkey, is one thing you must be sure of. I can't take any more, darling. Don't you monkey with the monkey. È bellissimo che siamo in tre, abbiamo fatto tipo l'applauso a ola, finiva uno, cominciava l'altro. Una caramella? Qualcuno ha una caramella? Allora, intanto che cerchiamo di far risolvere. Chi ha una caramella la mandi via WhatsApp al 333 180 94 94. Allora, Stefano, io adesso ho una domanda per te. Oh, per me? Sì, intanto che i nostri ospiti si rimettono a proprio agio, tu saresti pronto per fare quella cosa che di solito facciamo ogni volta che arriva la metà della nostra trasmissione? Sarei abbastanza pronto se non fosse che il mio computer oggi risponde un po' male. E quindi? Per cui lo faccio con molta calma, guarda, tipo così, aspetta. Tipo che io intanto metto questo. L'angolo della menzione. Ah, io stavo cercando quello, per cui sono prontissimo. No, ok, bene. È ora dell'angolo della menzione, te le dico tutte io perché dunque domani abbiamo detto che è la giornata del contemporaneo. Quindi è tutta roba tua, se vuoi ti leggo qualche nome sbagliato di tanto in tanto. Ok, stavo per dire promosso dalla Amaci, ma in realtà oggi ho scoperto da uno dei suoi componenti che si dice Amaci. Ah. L'associazione dei musei d'arte contemporanei italiani che hanno tanto anno, bisogno di essere amati del resto, quindi è bene mettere l'accento nel punto infatti, giusto, mi sta anche andando via la voce. Amate i nostri musei d'arte contemporanea italiana. E loro hanno inventato questa giornata del contemporaneo che tutti gli anni più o meno accade attorno all'8 ottobre, domani invece accade il 13, che è domani. E cosa succede? Che per l'occasione c'è una mostra di Marcello Malumberti diffusa in tutto il territorio nazionale. Pensiamo che fortuna per lui, Marcello. Perché proprio lui? Non lo so, ogni anno scelgono qualcuno, Marcello, in tutti i musei. Spero l'anno prossimo che scelgano te. Beh, chissà, prima o poi magari mi sceglieranno anche me. E dunque, dalle 10 alle 18:30, oltre a Marcello Malumberti, che è presente in tutti i musei d'arte contemporanea italiani in contemporanea. Ah, diffusa in quel senso, esatto. Per i musei, non per il territorio. Il Mambo presenta una conferenza internazionale chiamata Into the Wild, percorsi nell'arte outsider e contemporanea. Ed effettivamente è lì che mi sono chiesto come mai non mi hanno chiamato, visto che parlano di outsiders. Comunque, promosso dal Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e sostenuto dalla sezione Emilia Romagna della IAAP, International Association for Art and Psychology, a cura di Stefano Ferrari, Cristina Principale, Carol Tanzella e Sara Ugolini. Questo è il Mambo domani in via Don Minzoni 14, e poi naturalmente oltre a questo ci sono tutte le mostre che ci sono, tra cui una che ha inaugurato oggi, che però non mi ricordo più come si chiama. Però sembrava molto intensa, quantomeno per la temperatura che c'era all'interno, esatto, della sala. Era decisamente molto intensa la mostra. La mostra si chiama, non mi ricordo più, com'è possibile che non me la ricordo? Vuoi che prenda il biglietto della borsa? Ah, ce l'hai il biglietto della borsa? Dov'è? L'ingresso maggio sarà conferenza. Non c'è scritto niente. No, c'è infatti, il titolo. Un disastro. Ah, ecco, si chiama VHS Plus, c'è anche il sito vhsplus.it. Video, animazione, televisione, indipendenza, addestramento, tecnico, controllo produttivo 1995-2000, progetto di Salsa Guatti e Lucio Apolito a cura di Silvia Grandi, in collaborazione col DAR, Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, che ha inaugurato stasera, e c'erano un sacco di video, c'era un sacco di gente, Opificio Ciclope, Fluid Video Crew, Gino Naus, Otolab e Su Wu King. Bisogna tornarci e anzi andare anche a vedere ci sono un sacco di informazioni su questo momento un po' particolare in cui la videoarte ha fatto un salto tecnologico, per cui era successo, cioè è diventato, ed è esploso tutto, e il sito è www.vhsplus.it. Da domani su www.coxspaziale.blogspot.com. Molto bene. E la terza invece è sempre parte della giornata del contemporaneo ed è una personale di Giulia Bonora a cura di Claudio Rosi, e questa è domani al all'Istituto Storico Parri / Museo della Resistenza, e che è in via al convento di Santa Mattia, via Sant'Isaia 20, da non sbagliarsi con via Sant'Isaia 90, in cui succedono altre cose. Allora, non ti chiederò quali. Hai finito così? No, stavo. Ah, partivi con l'elenco dei nomi interminabili. No, dicevo che la mostra è ispirata dallo scrittore giapponese Natsume Soseki, secondo il quale la traduzione letterale dell'espressione ti amo è la luna stasera è blu. Ma che meraviglia! Giulia Bonora ci invita a leggere in maniera meno tecnica i suoi segni espressivi, ad indulgere verso un'interpretazione più libera e poetica, scivolando dalla sintesi del suo alfabeto verso la fluidità accogliente e sinuosa del suo prossimo racconto performe. E non ce l'hai più. No, è che vedi, con questo schermo in mezzo faccio un po' fatica a seguire, certo, i cenni che... E così, niente, un po' d'arte contemporanea, domani... E poi mi dicono anche dalla regia, che non c'è, che c'è anche una mostra collettiva dentro a San Petronio, in una delle navate di San Petronio, dove appunto c'è questo Aldo Galgano, che è stato mio prof di figura al liceo artistico, che saluto. Ciao. Il cui figlio suona con la Lidia Centineo, per cui è tutto un mischione, magna, come direbbe Farnelli. Esatto. Ma l'ho studiato sul libro dello zio. Ah, vedi, lei ha studiato sul libro dello zio, che era un famoso... Sì. Un famoso diritto privato, esatto. Mi ha anche interrogato sulla zia. Vabbè, ottimo, cioè sono queste le cose utili che gli zii devono fare. E ti ha dato 18? No. No, 26. No, qua ci sono dei problemi di volume, bisogna avvicinarsi di più al microfono, te ne rendi conto se metti le cuffie. Ecco, no, infatti un'altra cosa, è che questa cosa che non capisco, cioè questi professionisti che non si mettono le cuffie alla radio, veramente incredibile, ah, neanche fossero dei punk. Perché è caldo da morire. Le orecchie sudate non fanno bene. Noi siamo in duo acustico, quindi sì, sentiamo infatti direttamente lo strumento, il microfono potrebbe... Però se parliamo in effetti... No, se parliamo io ti ascolto, perché siamo in un metro quadrato con 200 gradi. Ma c'è un vetro e mi isoli a me, allora. Il problema è che quando parla Fedra tu non la senti. Bene, cosa ci sei, cosa ci fate sentire adesso? Ma anche perché il tempo stringe, il direttore ha detto di non sforare. Il direttore è tiranno, no, gli vogliamo tanto bene. Quando ci cambi di frequenza, di fascia oraria, quando ma che, ma mai? Volevo fare una cosa ardita, sono tutte preparate in 2-3 prove. Comunque ecco. Toxicity dei System of a Down, che è bella, è bella tosta, bella tosta, ma noi la fate voce Buzuki. La voce si sente, sto cercando di... Ma metti la palla, scusa, che devi... No, è a palla, ma sì? Continua a parlare. Pronto perché deve sentire anche lui, sì. Yes. Conversion software version 7.0, looking at life through the eyes of a tarma. Hidden seeds as a pastime activity, the toxicity of a city, yo. Are you on the world? Are you on deserter? Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Track. Eating seeds as a pastime activity, the toxicity of our city. Yo, what are you on the world? How do you on deserter? Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. When I began the sign, I showed love to my heart. When I began the sign, I showed love to my heart. È stata un'interruzione così improvvisa che io sono rimasta gelata. Stavi chattando, dove sei? Sono qui, stavo controllando i volumi, stavo facendo tutte le mie cosine. Ero sul pezzo. C'è qualcuno che vuole una tua foto, indovina chi è? Il caro Giffo. Giffo! Oh, che non si chiama più così, ma Oscar Moroni. Michele se ne va un'altra volta. Se n'è andato. Michele è stato fa bene. Così, figlia. No, invece... Cara Lidia, io ti volevo chiedere un qualcosa. Pigliate pure la pasta. L'ho trovata. Ok, grande, sono contenta. Le borse delle donne sono uguali alle borse delle front woman, se non anche più evolute, queste ultime. No, ti volevo chiedere, in tutti questi anni, come si è trasformata anche la dinamica delle vostre routine di prova, come scegliete i brani? Sono delle liti. Io questa qua la volevo fare da degli anni e lui mi ha sempre detto no, però del resto se lui non la suona tu non la puoi cantare. Sì, però l'ho convinto, non so cosa gli è successo. No, è che con la vecchiaia ci si ma sono giovanissimi i nostri ospiti coxici, Pasquini. Ma invece pezzi vostri mai? Tu stai brizzolato, no, Michele, non lo è? Infatti tanti, tantissimi, soltanto che lui adesso, perché lui si imputa, guarda che la vabbè, non posso dire parolacce. Puoi dire parolacce. Puoi dire tipo una coxata. Puntini puntini A del gruppo è lui, non sono io. Di solito dicono che la coxetta. La coxetta del gruppo. Si fa pregare per è tremendo. Ah vabbè, ma so così i musicisti, quelli che se la intendono, quelli bravi che ce l'hanno tutte. Cerco sempre di accontentarlo, lui sempre lì che protesta. No. È un po' tipico, effettivamente. È un po' tigna. Comunque ha tirato fuori la chitarra. Sì. Ha tolto il bazooka, per cui vedi si sta ammorbidendo. Non so cosa vuoi fare. Un pezzo vostro. No, magari nostro. Qualche uccellino prima mi ha detto che dei pezzi vostri sono stati fatti. Però lui dice che in pubblico adesso non li vuole suonare. Io li porterei anche tutti da farvi sentire le registrazioni, che sono anche molto interessanti alcune. E lei però ovviamente no, per carità, io le vorrei rivedere secondo tutte. Secondo me invece vanno bene alla luce dei giorni nostri. Per cui tipo fra un 25 anni il vostro primo album riusciamo a pubblicarlo. Faccio prima con Galgano. Con Galgano sono solo pezzi nostri, quindi abbiamo solo risolto all'origine. Però Galgano è troppo timido, lui non verrà mai in radio. Ma figurati, Simone. Sì, no, te lo dico io. La domandona: qual è stato il primo pezzo su cui eravate tutti, quelli presenti o quelli anche quelli che non ci sono più, tutti d'accordo da fare? Io me ne ricordo uno che si chiamava Una fine orribile. No, questa però l'avevo scritta io. Cioè, dai, fatecelo un attimo, dai, fatecelo al volo, dai, su, Una fine orribile. Inventa. Inizia con uno filo orribile per il genere umano. No, me lo dovete fare assolutamente. Tira fuori il testo, dai, su. Tu suona. No, dai. Improvviso io, dai, una fine orribile per il genere umano. Però dai, simpatico questo. Vedi com'è? Non parte, io li so. Ma non me la ricordo. Io la comprendo. Cioè, prima di uscire con un brano tuo scritto da te, almeno di rimuovertelo un attimino, fare due provette. No, il motivo è perché io ho questo sogno di fare un CD di Coxo Spaziale, di tutti i live di Coxo Spaziale con tutte le. Però ci vogliono dei pezzi originali. Sarebbe più bello. Torniamo un'altra volta, ne facciamo qualcuno. Vabbè, adesso il 12 gennaio del 2019. Vi rinvito, così magari dopo, quando torna a casa, gli arriva un altro strumento. Però in effetti, ragazzi, tempo comincia ad essere tiranno. Stefano, tu ultima canzone. Sei sicuro di dover mettere anche quel contributo musicale? No, assolutamente no. Questo brano che viene forse potrebbe anche essere l'ultimo. Potrebbe anche essere l'ultimo, dipende da quanto è lungo. Triste. Questo è molto breve. Qua dice 52, io dico 51, da un'altra parte ho visto 55. 49, 50. E non contiamo il tempo, contiamo il vostro tempo. Cantate, dai. Triad, questa è vecchissima. Questa me l'ha consigliata Michele. Si sente. Però è. To know how we will be, me and him and you, me, you both. Your eyes are alive, your mind is still growing. Say to me, what can we do now that we both love you? I love you too. I don't really see a thing to you. Your mother's ghost stands at your shoulder, face like eyes, just a little colder, saying to you, you cannot. Cavoli, Michele ti ha consigliato proprio bene. Bellissimo. Lo voglio sempre fare, non riusciamo mai. Non ci siamo mai. Secondo i tuoi canoni. Questa la faceva 20 anni fa, l'abbiamo ritirata fuori adesso. Di Crosby, Stills, Nash e Young, credo. Però, cosa volevo dire? Bellina perché parla di un rapporto a tre. Cioè dice me and him and you and me. Allora ci sono due che sia due, cioè c'è un triangolo. Io amo sia uno che una, credo, no? A me piace armonicamente. Allora a un certo punto si dice: ma perché non andiamo avanti in tre? Scusa, cioè, esatto. Mettiamoci insieme e troviamo il punto d'accordo. È bellissimo. Ma sì, ma di chi è? Amore universale. Crosby, Stills, Nash e Young. Poi io ho sentito la rifatta. Loro erano in quattro, per cui c'era l'escluso, sono stati. Esatto, c'è qualcosa che non quadra in questa triade. Comunque, cosa facciamo? Riusciamo a farne un'altra prima di io salutarmi? Io temo di no e mi dispiace. Temo di no perché... sì, hai ragione, perché poi dopo poi veniamo sgridati. Delle due chiuderei un po' in anticipo così da fugare ogni dubbio dalla mente del nostro direttore. Hai ragionissimo e dunque così ci salutiamo, è stato bello, no? E dunque tanto i Depeche Mode, dai, era meglio non fare. Però io non me la sento di mettere il jingle canonico finale. Metto questo. E allora anche questa puntata di Coxo Spaziale si conclude e salutiamo i Lydia Is. Che in questo caso fine. Sono Lydia e Michele. Lydia e Michele. Sì. E Centineo, Michele Lenzi. Bravi. L'ospite silenzioso e l'ospite silenzioso fotografante. Ciao. A presto ragazzi. Questo era Coxo Spaziale, noi ci rivediamo Ciao. Venerdì prossimo sempre dalle 20 alle 3 alle 30. Ci risentiamo. Ci risentiamo. E ci rivediamo invece su www.coxospaziale.blogspot.com. Tutti i venerdì dalle 20 alle 21 su Radio Città Fujiko 103.1. Ciao. Ciao. Ciao Fedra.